Evangelio di Tommaso. Infanzia di Yeshua, Bar Yosef. Natività di Maria e Evangelio dell'infanzia del Salvatore. Altre traduzioni: Evangile dell'infanzia du Christ de Thomas, Voltaire 1829, e Ouvre complete, volume 4. Scritti di Tommaso. Vangelo copto di Tommaso. Giuda di Dimo. Altra traduzione: Gospel of Thomas. Budge 1899. Atti di Tommaso. Dell'apostolo Tommaso Giuda. Altra traduzione: Istoi res edifiantes de San Thomas. Abbe Maestre 1870. Atti di Andrea Apostolo. O miracoli del beato Andrea Apostolo. Altra traduzione: Acta Apostolorum. Smith e Lewi, 1904. Evangelio di Bartolomeo. O Evangelio sotto il nome di Bartolomeo. Altre traduzioni: Book of the Resurrection of Christ, di Bartolomeo Apostle. Budge 1913. Y Evangile de San Bartolomeo. Revillut 1985, Patrologia Orientalis, tome II. Misteri di San Giovanni il Divino. Altra traduzione: Mystery of Santo John, the Apostle, and Holy Virgin, Budge 1913. Nel nome di Dio, del Figlio e dello Spirito Santo. Un solo Dio.